We're gonna have fun. Yes. Good rocking tonight. Ben sintonizzati sulle frequenze di Radio Popolare. Ben ritrovati sulle frequenze di Radio Popolare. Maurizio Faurisi al microfono a presentare l'appuntamento, la seconda puntata di Good Rocking Tonight. Un appuntamento settimanale completamente e tutto quanto dedicato al rock and roll anni 50, ma anche anni 40, ma anche anni 60. E ci spingiamo addirittura all'attualità, ma naturalmente solo ed esclusivamente con materiale registrato con lo spirito di allora. Quindi anni 50, il debutto di Good Rockin' Tonight è andato in onda settimana scorsa, era esattamente il 30 di luglio alle 23:35, un debutto qui su Radio Popolare di una trasmissione che in realtà è andata in onda per molti anni dalle frequenze della compianta Rock FM. Un saluto a tutti voi cari ascoltatori di Radio Popolare, un caro saluto agli amici di Rock Family che seguono questa trasmissione da anni. E allora riprendiamo esattamente dove abbiamo lasciato il discorso. Sì, perché diciamo che ho vissuto questa settimana con una sorta di senso di colpa per aver chiuso la trasmissione della settimana scorsa dovendo sfumare una canzone That'll Be the Day di Buddy Holly che avrei tanto voluto ascoltare e farvi ascoltare per intero. Iniziamo proprio da Buddy Holly, era il 1957 con That'll Be the Day. Iniziamo questa sera con Peggy Sue 1958 e Buddy Holly. Delle tante gemme che in soli 18 mesi di carriera discografica il nostro Buddy Holly è riuscito ad anellare, è una serie di grandi canzoni che sono rimaste nella memoria di tutti gli appassionati di rock che si sono rivelate seminali per certo pop, certo rock, come negli ultimi 50 anni hanno dimostrato. Questo era Buddy Holly nel 1958. Uno degli obiettivi di questa trasmissione senza alcun dubbio è quello di confermare, casomai ce ne fosse ancora l'esigenza, quanto siano state fondamentali il blues e il country nella formazione, nello sviluppo, genesi del rock and roll. Settimana scorsa l'abbiamo ampiamente dedicata a canzoni, la trasmissione l'abbiamo ampiamente dedicata a canzoni che arrivavano dalla tradizione nera e vennero eseguite in seguito da artisti bianchi. Vogliamo fare ancora questo tentativo già con la seconda canzone di questa sera, un vecchio blues registrato nel 1955 che è rimasto poi di fatto blues anche nelle versioni seguenti, ma basta alzare un po' il ritmo e questa canzone di Little Walter, Ma Babe del 1955, si può trasformare tranquillamente, molto facilmente, in un brano rock and roll. Little Walter. My baby, don't stand no cheating, my babe. Oh yeah, she don't stand no cheating, my babe. Oh yeah, she don't stand no cheating. She don't stand none of that midnight creeping, my babe. True little baby, my babe. My babe, I know she love me, my babe. Oh yes, I know she love me, my baby. Oh yes, I know she love me. She don't do nothing but kiss and hug me, my baby. True little baby, my baby. She do so pleasing, my babe. True little baby, my babe. My baby don't stand no fooling, my babe. Oh yeah, she don't stand no fooling, my babe. Oh yeah, she don't stand no fooling. When she's hot, there ain't no cooling, my babe. True little baby, my babe. Registrata a Chicago e dove se no nel 1955, questa era My Baby, un classico del blues che, dicevo, basta poco per farlo diventare un rock and roll, soprattutto se finisce nelle mani di Robert Gordon. Baby, don't stand no cheating, my babe. Oh yeah, you don't stand no cheating, my babe. Oh no, you don't stand no cheating. Don't stand no to that midnight creeping, my babe. Too little baby, my babe. My babe, I know. feet to my feet. Get up! Questa era la versione di del grande rocker Robert Gordon, un personaggio che ha rivitalizzato il rock and roll negli anni, a partire dagli anni 70, con quel ritorno cavalcato da personaggi come Robert Gordon, Stray Cats e tanti altri. Queste prime trasmissioni naturalmente servono, queste prime trasmissioni di Good Rockin' Tonight servono per celebrare ancora una volta la voce, l'arte, la musica dei più grandi artisti del rock and roll anni 50, inframmezzando questi personaggi con cose meno famose, con cose più attuali, giocando con le cover come abbiamo fatto già all'inizio di questa trasmissione. Un personaggio che non abbiamo ascoltato la settimana scorsa, ma solo per una questione di tempo, insomma, qualcuno andava messo prima di altri, e semplicemente diciamo che fare una lista dei personaggi fondamentali non basta una prima lunga trasmissione di un'ora. E così Chuck Berry passa alla seconda trasmissione, e ce l'ascoltiamo con piacere questa sera con un brano intitolato Sweet Little Sixteen, che si trasformerà in un brano, in una canzone surf qualche anno dopo in mano ai Beach Boys. E Sweet Little Sixteen e Chuck Berry. They're really rocking in Boston and Pittsburgh, PA, deep in the heart of Texas and round the Frisco Bay, all over St. Louis and down in New Orleans. All the cats gonna dance with Sweet Little Sixteen. Sweet Little Sixteen, she just got to have about a half a million famed autograph. Her wallet filled with pictures, she gets them one by one. Become so excited, watch her look at her run. Oh, mommy, mommy, please may I go? It's such a sight to see somebody steal the show. They'll be rocking on bandstand in Philadelphia, PA, deep in the heart of Texas, around the Frisco Bay, all over St. Louis, way down in New Orleans. All the cats wanna dance with Sweet Little Sixteen. She's got the grown-up blues, tight dresses and lipstick, she's sporting high-heel shoes. Oh, but tomorrow morning she'll have to change her trend and be Sweet Sixteen and back in class again. But they'll be rocking in Boston, Pittsburgh, PA, deep in the heart of Texas and round the Frisco Bay. 1957, eravamo esattamente nel 1957 con Chuck Berry e la sua Sweet Little 16. E lasciamo passare un anno e con Good Rockin' Tonight ci andiamo ad ascoltare un altro personaggio, dicevo, di personaggi famosi e personaggi, diciamo, minori. Era un personaggio locale, più famoso come DJ piuttosto che come cantante, anche se ebbe il, sto parlando di Big Bopper, una notevole fortuna locale che probabilmente si sarebbe trasformata in nazionale e internazionale se non fosse salito anche lui su quell'aereo che il 3 febbraio del 1959 ci portò via sia il Big Bopper che Richie Valens, che il Buddy Holly che abbiamo ascoltato poco fa. Erano in tournée e si schiantò quell'aereo ed erano questi tre grandi personaggi e scomparvero, e alcuni dissero che in quella data in pratica moriva il rock and roll. Il 59 difatti fu una brutta annata, aperta con questa disgrazia che lasciò il segno e non poco. Big Bopper lo si può ascoltare anche nella colonna sonora del film American Graffiti, grazie a quella canzone intitolata Scintilli Lace, che non andremo a ascoltare questa sera. Ne ascoltiamo un'altra intitolata Big Bopper's Wedding. Big Bopper. And a man keeps saying, do you take this woman to be your awful wedded wife? I never thought of thinking about her no more winking at the pretty little gals about by. No more dancing and a new romance. And Lord, it made me want to sit down and cry. Oh, no, boo shooting at a rootin' at a tootin' with the boys if I take you from my wife. I can't go no place. I gotta look at your face for the rest of my doggone life. This is it! What am I doing here in the first place? You know, I don't go for this marriage bit. I was only kidding. And there's your daddy sitting over there with a shotgun laying across his lap and a big smile on his ugly face. And the man keeps saying, are you gonna take this woman or ain't you? Well, I never started thinking about her no more, winking at the pretty little gals about my head. No more dancing and a new romance. And Lord, it made me want to sit down and cry. Oh, no, blue shooting and a rootin' and a tootin' with the boys if I take you for my wife. I can't go no place. I gotta look at your face for the rest of my doggone life. This is it. Honey, what's this jazz about love, honor, and obey? That cat's talking to me. And look at all these good-looking bridesmaids standing around. Hello, baby. And the man in charge keeps saying, look here, do you take this woman or don't you? Well, then I started thinking about her. No more winking at the pretty little gals about my hair. No more dancing at a new romance. And Lord, it made me want to sit down and cry. No poo shooting and a rootin' and a tootin' with the boys if I take you for my wife. I can't go no place. I gotta look at your face for the rest of my doggone life. This is it! And the man keeps saying, look here, do you take this woman or don't you? And I say, partner, I don't believe I do. Let me out of here! Big Bopper, anche lui questa sera a Good Rockin' Tonight. Ebbene, si prosegue tornando a prendere in considerazione qualche grande del rock and roll. Uno in particolare si chiama Carl Perkins, e torniamo a quella Sun Records che abbiamo lungamente citato la settimana scorsa. Andrà in onda un brano non datato anni 50 per quanto riguarda Carl Perkins, un vero e proprio stilista del rock and roll, la chitarra rockabilly per eccellenza. Ci ascoltiamo un classico dal suo repertorio che lui però esegue molto molto più avanti negli anni 90, tra l'altro non da solo ma insieme a Duane Eddy, altro grande chitarrista, quello della chitarra twang per intenderci, e accompagnato con l'intera formazione dei Mavericks, una nota country band originaria della Florida ma che risiede a Nashville da ormai molti anni. Carl Perkins, ce l'ascoltiamo con la sua Matchbox, ma non prima di avervi ricordato che questa è Radio Popolare, che questa è Good Rockin' Tonight e che sta andando in diretta, e che potete scrivere a faulisi@radiopopolare.it se avete qualcosa da dire. Matchbox, Carl Perkins. do is wrong. But I'm sitting here wondering who the macabre sold my clothes. Lord, I'm sitting here wondering what a match about hold my clothes. I ain't got no magic, but I got a long way to go. I come on and rock. Let me be your little dog till your big dog comes. Let me be your little dog till your big dog comes. When a big dog gets here, show what his little puppy's done. I'm sitting here one more to match my fold of my clothes. Yeah, I'm sitting here one more to match my the hold of my clothes. Baby, don't shake my tree. If you don't want my peaches, baby, don't shake my tree. Well, if you don't want my loving, honey, don't fool with me. But I'm sitting here wondering what a matchbox hold my clothes. Yeah, I'm sitting here wondering what a matchbox hold my clothes. I ain't got no magic, but I got a long. Questa è la chitarra di Duanetti. Carl Perkins. Hey, in the groove. Matchbox. Che squadra, ragazzi, la squadra era formata dai Mavericks, tappeto sonoro, alla chitarra, alla twang guitar Duane Eddy, alla chitarra solista e band leader e cantante lui, Carl Perkins, che tra l'altro condivideva il microfono con Raoul Malo in questa versione del 1994 di Matchbox. Allora si va avanti con questi ritmi e si va avanti con un brano che arriva dalla Canada. È scomparso nel 2004, si chiamava Ray Kondo ed è scomparso nell'aprile del 2004, soltanto un paio di mesi prima di una toccata verso l'Italia. Doveva portarlo un piccolo breve tour che avrebbe consentito anche a noi italiani di goderci Ray Kondo, uno dei più grandi della nuova ondata rockabilly degli anni 90 e 2000. Ce lo ascoltiamo, Ray Kondo, tenetevi forte, un sano rockabilly fortemente influenzato dallo swing con Eddie Sealing Boogie, Ray Kondo con i suoi Ricochet. Medicine, it cures all ills. If you grab a big bottle, you can throw away your bills. It's all not a feeling, it is quite a drug. It's a boogie woogie tonic and it makes you want a jitterbug. I was all run down, I was weak in the knees. I was overdone, fragile, I was flattering in the breeze. After taking two bottles, I'm here to say I'm a long gone daddy and a heavy cat pop all the way. Got the taste go for dinner in your old coffee cup, makes you jumpy as a frog and as freaky as a pop. A boogie back of work just a laughing like a town here, I'm picking them up and I'm setting them down. Knew what hit him and a kiss he'll never understand. I was talking to a farmer just the other day. He said the cow's been milking in the hens only. He even had a feeling in his fears up and down. That the cows did butter in the hens lay eggs to be a pound. But if the kids home for dinner in your old coffee cup makes you jumpy as a frog and as frizzy as a pop, a boogie back of we're just a laughing like a clown. You're picking them up and it's setting them down. Yeah, you say your tongue is dragging and your tongue is a dragon. There's a knock in a mortar and you're heading for the wagon. You owe it to yourself just to give it a try. Take a look in the mirror at the newborn twinkle in your eye. I got some cheese for dinner and your old coffee cup makes you jumpy as a frog and as freaky as a hawk. A boogie back of words just a laughing like a clown. You're picking them up and it's setting them down. Vi avevo avvertito. Era un grande Ray Kondo dal Canada, dal suo Quebec. Abbiamo ascoltato con Ray Kondo Eddie Sealing Boogie e rimaniamo nell'attualità. Ricorderete la settimana scorsa abbiamo ascoltato non una, non due, ma addirittura tre versioni di Keep on Knocking But You Can't Come In, quella di Louis Jordan, quella di Little Richard e poi anche quella dei Blasters. Avevo presentato, senza peraltro esagerare, i Blasters come una delle più grandi formazioni rock and roll di tutti i tempi. E davvero non era un'esagerazione, perché anche se questa formazione non risale agli anni 50, bensì agli anni 80, e nonostante abbiano inciso pochi dischi, hanno lasciato un segno davvero molto profondo, tant'è che qualcuno, una manciata di bravissimi, attualissimi musicisti rockabilly, ha deciso di dedicare un tributo ai Blaster intitolato Blaster. Red Rose. My father sat with a knife for a drink. My mother washed two shoes in the sink. I put on this dress, wearing my best. One red rose, black dress. If you walked under the power lines, I dreamed about it a thousand times. You were like the rest. One red rose, my new black dress. Red rose, my new black dress. between our teeth. Tonight, I wonder where you'll be. Dal repertorio dei Blasters abbiamo ascoltato una versione grintosissima cantata, eseguita da Josie Kreuzer and the Raw Hot Rod Lincoln in questa compilation, in questo tributo dedicato ai Blasters intitolato Blasterate, di qualche anno fa, ma di pochi anni fa. Mancano una ventina di minuti alla conclusione di Good Rockin' Tonight, quanto basta per ascoltarci ancora 5 o 6 pezzi esplosivi, non meno di quelli che abbiamo ascoltato fino adesso. Voglio ricordare ancora una volta che Good Rockin' Tonight va in onda tutti i mercoledì dalle 23.35 dopo le notizie in breve, per un'ora quasi tonda con Maurizio Faulisi da Radio Popolare. Se volete scrivere, se volete fare richieste, ma davvero, fatele inviando una mail a faulisi@radiopopolare.it. Non ho ancora, credo di non avere ancora questa sera, non avere ancora fatto ascoltare e presentato artisti che arrivavano dal passato più remoto, diciamo da personaggi che hanno contribuito a far nascere il rock and roll prima che il rock and roll venisse chiamato rock and roll. Questa per esempio è una canzone, un brano del 1953, quindi eravamo lì, insomma, era a tutti gli effetti rock and roll. Lui, personaggio californiano, Merrill Moore, scomparso recentemente, è tornato in auge negli ultimi anni, è lui stesso anziano, si stupiva di quanto fosse amorevolmente ricordato con tanto di standing ovation ai festival al quale partecipò in Europa. Personaggio di spicco per quanto riguarda il pianoforte, sicuramente uno dei personaggi che Jerry Lee Lewis prese in seria considerazione quando cominciò a suonare. Si chiamava Merrill Moore e noi ce l'ascoltiamo con un brano del 1953 intitolato House of Blue Lights. Lace up your boots and we'll broom on down to a knocked out shack on the edge of town. An 8-beat combo that just won't quit. Keep a walking till you see the blue light lit. Fall in there and you'll see some sights at the house. The house, the house of blue lights. There's flyers and broilers and Detroit barbecue ribs. But the treat of the treats is when they serve you all those fine 8-beats. You'll want to spend the rest of your rights down at the house. The house, the house of blue lights. sights at the house, the house, the house of blue lights. Serve you all those fine 8 feet. You want to spend the rest of your rights down at the house, the house, the house of lights. Scritta da Freddie Slack qualche anno prima, era una canzone decisamente country che il nostro Merrill Moore incise dandogli notevole ritmo. Lui che avrebbe voluto suonare swing e jazz, mi riferisco a Merrill Moore, invece dalla casa discografica, la Capitol Records di Los Angeles, invece era costretto dalla casa discografica a suonare quello che andava forte in quel periodo, il boogie quasi rock and roll. Poi di fatto l'avete sentito in questa House of Blue Lights del 1953, rock and roll a tutti gli effetti. Era rock and roll anche quello nel 1951 che incideva Moon Mullican, il texano Moon Mullican, e sempre ci riallacciamo al discorso delle influenze di Jerry Lee Lewis. Senza alcun dubbio anche in questo caso Moon Mullican va annoverato tra i personaggi che lo hanno formato, sì, perché nelle interviste e nelle pagine di storia del rock si può leggere, si può ascoltare dalla voce di Jerry Lee Lewis che il rock and roll, il suo modo di suonare il piano lo apprese ascoltando e guardando direttamente artisti neri della sua zona, ma poi ascoltando alla radio alcuni personaggi come Merrill Moore e Moon Mullican, che quest'ultimo Moon Mullican eseguiva del western swing già negli anni 40, e man mano che si avvicinava il rock and roll, il periodo in cui sarebbe esploso il rock and roll, anche lui andava suonando sempre di più quel ritmo che poi di fatto era rock and roll. Lo sentiamo nel 1951, una bellissima versione Cherokee Boogie del 1951 di Moon Mullican. He dances along, he sings an Indian boogie to a white man's song, saying, hey, ho, Lena, saying, hey, ho, Lena, saying, hey, ho, Lena, ho, ho, now it's an eye. Well, he dances over here, and he dances over there, and he's dancing with a squaw called Standing Bear, saying, hey, ho, Lena, saying, hey, ho, Lena, saying, hey, ho, Lena, ho, ho, now it's an eye. In a trot and he dances in a walk, but he keeps on shaking his old Tommy Hawk, saying, hey ho, Lena, saying, hey ho, Lena, saying, hey ho, Lena, oh ho, now it's an eye. Now he sings a little soft and he sings a little loud, and his tom tom beats old Cheap and Cloud, saying, hey ho, Lena, saying, hey ho, Lena, saying, hey ho, Lena, oh ho, now it's an eye. volte bastano due dita. E questa è Cherokee Boogie del 1951, Moon Mullican. Una di quelle canzoni che anche se le riproponi difficilmente riesci a trasformarle, non è necessario, è bella così com'è. Cherokee Chief, as he dances alone, he does the Indian boogie to a white man's song, singing Hey Ho Alina, Hey Ho Alina, Hey Ho Alina, Hey Ho Alina. Well, Hey Ho Alina, what a rhythm now, hey. Oh, when he dances, he dances, he keeps on dancing to the everywhere, singing Hey Ho Alina, Hey Ho Alina. Non era perfettamente uguale alla versione di Moon Mullican, anzi quella, la prima, la versione del 51 era decisamente swingata con un piano honky tonk. Qui era una giusta via di mezzo tra country music e rock and roll, dalla band denominata BR549, che risiede a Nashville e fa esattamente questo, un qualche cosa, una formula che è il giusto equilibrio tra rock and roll e country music. E ora, quando mancano una decina di minuti scarsi alla conclusione della trasmissione, momento storico, arriviamo al primo ascolto di un gruppo non americano. Questa è Good Rockin' Tonight e diamo il benvenuto anche ai Seat Sniffers, una formazione che io amo particolarmente perché ho avuto modo di ascoltarli qui in Italia e sono veramente strepitosi nell'eseguire un rock and roll fortemente influenzato dagli anni 50 e dall'aspetto più afroamericano del rock and roll. Un quartetto che è composto da batteria, da chitarra elettrica, contrabbasso e un ottimo sax baritono. Che ci vogliamo ascoltare, i Seat Sniffers, che si portano dietro questo nome particolarissimo, curiosissimo, gli annusatori di sedili. Vai a capire, bisognerebbe chiedergliela la motivazione perché si sono dati questo nome. Assembly Line, la canzone Non abbiate paura, alzate il volume, in fondo è solo Seat Sniffers, anche loro al Good Rockin' Tonight. I never ran too fast or jumped too high. Well, I learned how to walk, but I will never fly. What I write down, you can't read. I am a handyman, you assembly line. Well, I can walk and talk like a natural man. If I did something good, I can't do it again. I can't drive a car or ride a bike. To get from here to B, I have to take a hike. But there ain't nothing wrong with me, I'm feeling fine. I got a little mixed up on the assembly line. Questi erano i Seed Sniffers. I Seed Sniffers dal Belgio, non temete, molto presto ascolteremo altre formazioni europee e naturalmente anche italiane, quindi l'appuntamento è per il mercoledì, se volete ascoltare del buon, sano, vecchio, intramontabile rock and roll con Maurizio Faurisi dalle frequenze di Radio Popolare. Ancora una canzone, quest'ultima canzone, signori miei, è di Gene Vincent. Sì, 1958, ci salutiamo questa sera con Gene Vincent. Non è necessario presentare un personaggio di tale spessore, di tale importanza nell'ambito della storia del rock and roll, e non intendo farlo. Gene Vincent ce l'ascoltiamo con Love Lovin'. Maurizio Faurisi vi ringrazia per il cortese ascolto e ci risentiamo su queste frequenze la settimana prossima, mercoledì. Ciao a tutti. So baby, can't you see that you were meant for me? I want your loving, yes sirree. I bet I wanna da-da-da-da hug you. I bet I wanna da-da-da-da kiss you. So baby, please proceed to give the love I need. I want your loving, yes indeed. Well, I want you, I love you, I need you so much. Why don't you give out with that magic touch? You send me, you thrill me, baby, you're so fine. I want your loving, baby, all the time. I bet I wanna I love you, I need you so much. Why don't you give up with that magic touch? You send me, you thrill me, baby, you're so fine. I want you loving, baby, all the time. I bet I wanna love it. I bet I wanna hugging. So baby, don't forget, I'm gonna get you, yeah. I want your loving, oh, you better rock. I wanna, wanna, da-da-da-da loving. Oh, baby, I wanna, da-da-da-da hugging. But baby, don't forget, I'm gonna get you, yeah. I want your loving, oh, you bet, well, I need your loving, oh, you bet, well, I want.